se volete completare l'incipit di Andrea Denari, di Andrea Vitali per i denari. Sì che l'abbiamo colto in castagna, commissario Carbone, prontissimo. Ma in arrivo, come si fa? Carbone, nome, una garanzia. Dottor colesterolo, dottora Volley. Dottora Volley. Buongiorno. Lei non è Sant'Antonio da Padova? No, io sono Gianni. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E poi l'altra cosa che lamentano è il fatto che magari hanno preso qualche chilo, perché se siamo stati in vacanza e non abbiamo seguito un po' le nostre regole, magari abbiamo trovato il villaggio dove si mangiava un po' di più, la colazione frettolosa è diventata una colazione seduti con le brioche, con il burro, con la marmellata, beh insomma a quel punto il chilo, i 2 chili, 3 chili non è facile prenderli. E voi siete già saliti sulla bilancia? Io sì, e devo dire ho preso un chiletto molto abbondante, quasi 2, Deborah. Ma dove? Tutta nelle mie forme. Dove l'hai messi? Cioè, li sei nascosti proprio bene, però. D'altronde un aumento di peso lo si mette un po' in conto. Azzarderei a dire che è quasi fisiologico. Le vacanze vengono una volta sola, se vengono, e già si deve rinunciare a tante cose, che qualche volta è giusto gratificarsi. Bene, allora oggi cercheremo di capire come perdere quei chiletti che abbiamo preso in allegria, quasi senza rendercene conto. A volte si eliminano molto facilmente, a volte invece sembra che si siano un po' affezionati e non ci vogliono lasciare. Ma naturalmente noi non vogliamo neanche trascurare chi è tornato in piena forma, tonico, aitante, muscoloso, e anche se con un po' di invidia, vedremo insieme con l'aiuto del nostro esperto come aiutarlo a mantenere il peso forma delle vacanze. Nel frattempo sarebbe carino che voi ci raccontaste come è andata, che forma vi hanno regalato le vacanze. Mela, pera, peperone, altro, 800 24 0024. Insomma, in quale ortaggio vi siete trasformati in queste vacanze 2014? Allora, da un lato c'è qualcuno che torna dalle vacanze, non stavo pensando ieri sera in palestra un mio amico che mi ha detto che ha preso 5 chili. Mi hai detto di ascoltare Cuore Denari. Certamente oggi. Dico guarda, domani ci sono tutti i suggerimenti per te, anzi lo salutiamo Rudy che magari ci sta ascoltando perché è un grande fan di Cuore Denari, sudando sulla certo sullo step. Allora, da un lato, come dicevo, c'è qualcuno che torna dalle vacanze e si pone il problema della linea, della forma, dall'altro c'è invece che prima di tutto questo ha dovuto porsi un altro problema, quello di come tornare dalle vacanze, perché i disagi nei trasporti quest'estate non ce li siamo proprio fatti mancare, come dicevamo nelle anticipazioni prima dell'inizio della trasmissione. Ultima in ordine di tempo la vicenda della compagnia Go in Sardegna, che copriva, dobbiamo proprio parlare al passato, la tratta Olbia-Livorno e che ha ben pensato di interrompere ogni servizio proprio l'ultima settimana di agosto. Annullamenti dell'ultimo momento, attese interminabili, necessità di acquistare altri biglietti con altre compagnie senza avere la certezza di un rimborso da parte appunto di Go in Sardegna. Questi sono alcuni dei disagi subiti. 800 24 00 24, numero verde a vostra disposizione. Se siete tra i malcapitati, raccontateci la vostra esperienza. Ma se la vostra vacanza è stata rovinata anche per altri motivi, i nostri esperti saranno a vostra disposizione a partire dalle 11.45. Lampone, chi c'era con te? Banane, lampone, ma anche pera, mela, peperone. L'estate ha cambiato le vostre forme. Chiamateci al nostro numero verde 800 24 00 24. In linea con noi, finalmente siamo riusciti ad acchiapparlo. Lui sarà tornato in forma smagliante, ci umilierà qua. Come ci meritiamo. Infatti lo teniamo solo al telefono, non vogliamo vederlo, ma vogliamo sentire i suoi consigli. Benvenuto al dottor Filippo Ongaro, buongiorno. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ormai noi non lo presentiamo quasi più. Ah no, guarda, Ongaro. Gli ascoltatori sanno benissimo, solo a pronunciare il nome Filippo sanno già di chi parliamo. Dottor Ongaro, lei com'è tornato? Ma sono tornato abbastanza in forma, devo dire, anche perché ho fatto una vacanza, sono stato fortunato a poter fare una vacanza abbastanza lunga, mi sono rilassato, ho fatto sport, ho mangiato bene, quindi devo dire che è stata un'estate positiva. Allora, Oscar ci scrive subito da Belluno: la mia forma è a cipolla, quando mi guarda allo specchio mi viene da piangere. Mentre Roberto ci scrive che ha preso 4 kg e adesso tapirulan e via che si va, un po' come il tuo amico. Esatto, 5 kg abbiamo subito come dire, ripreso anche la buona abitudine dell'attività sportiva, perché sennò qua non recuperiamo più. Dottor Ongaro, però iniziamo da una buona notizia: questi chili che abbiamo preso così rapidamente in allegria, abbiamo anche buone possibilità che altrettanto rapidamente se ne vadano? Io voglio darle un aiutino, un po' condurlo prima che lei risponda, farle presente bene la situazione. Siamo già un po', non dico tristi, ma non abbiamo l'umore proprio al massimo, perché siamo rientrati tutti a lavorare, dobbiamo riprendere il passo, ne abbiamo parlato ieri, e quindi non siamo tanto propensi alle rinunce. Uomo, anzi, Ongaro avvisato, Ongaro salvato. Che ci dice? Cioè, vi preoccupa che mandiamo subito in depressione tutti gli ascoltatori? Ah no, abbiamo già fatto ieri con le tasse, dottore, quindi non si preoccupi, lei non potrà che migliorare la situazione. Sì, è difficile ovviamente generalizzare, però è vero sicuramente che se si tratta di quei 2-3 chili presi un pochino per distrazione, anche vogliamo dire per socializzazione, che ha ovviamente anche dei risvolti molto positivi, perché se vuol dire stare più in compagnia, stare più con i familiari, avere appunto un pochino più tempo anche per star seduti a tavola, si può anche finire col mangiare un po' di più, ma ha anche un effetto psicologico secondo me positivo, e non è troppo difficile perderli. È evidente che se diventano 5, 6, 7, 8 allora il problema è un pochino diverso, anche perché sappiamo che le calorie non sono così centrali come abbiamo pensato per tanto tempo, però insomma un'idea ce la danno: un chilo di grasso per perderlo occorre creare un deficit di 7.000 calorie, se accumuliamo 5-6 chili sono qualcosa come 40.000 calorie da smaltire, quindi direi 40.000 calorie, una montagna. Esatto. Quindi direi che il problema cambia parecchio, appunto, se stiamo parlando di quel 1, 2, 3 chili o se abbiamo superato una soglia. Se i chili non sono tanti, è evidente che già la rinuncia all'aperitivo, alla cena con gli amici, una ripresa della quotidianità comporta in genere anche un ribilanciamento abbastanza facile di questo sovrappeso. Ecco. Dottor Ongaro, noi un po' anche per divertirci abbiamo voluto, per semplicità, descrivere i 3 profili più frequenti, no? Mela, pera, peperone. C'è un ascoltatore che dice: è stata la mia prima vacanza da single e mi sento una banana, quindi si sarà asciugato, consumato d'amore, forse, speriamo di no, lo auguriamo a lui. Esatto, magari anche un po' ricurvo, ma ecco, ci fa una descrizione, come dire, scientificamente più professionale di questi profili. Sì, stiamo sui profili più conosciuti, cipolla e banana a parte, quindi diciamo pera, mela e il terzo, che è il cosiddetto peperone. L'accumulo a pera è quello che riguarda soprattutto ovviamente le gambe, i glutei e la parte bassa dell'addome, è più tipico delle donne, ed è più tipico delle donne proprio perché sono gli estrogeni, cioè gli ormoni femminili, a favorire il deposito del grasso in quelle particolari zone. La tipologia a mela è invece al contrario, un pochino più tipica dei maschi, riguarda ovviamente un accumulo invece nella parte più alta dell'addome, anche nel torace, la forma più rischiosa dal punto di vista cardiaco e metabolico, perché più connessa a squilibri del controllo della glicemia, della produzione di insulina. Il peperone è un pochino un misto, cioè ha un accumulo più distribuito, un po' più generalizzato, e alle volte è la trasformazione di uno delle due tipologie descritte precedentemente. Per esempio, la donna che nell'età fertile tende ad ingrassare nella zona appunto più inferiore del corpo, dopo la menopausa inizia invece ad accumulare anche in altre zone. Quindi insomma, queste sono le 3 descrizioni classiche per capire un pochino in quale categoria, macro categoria, ognuno di noi si trova. Allora, per mele e peperoni si accettano anche altri frutti per altri paragoni, tante forme, un unico numero verde 800240024, ma già che chiamate diteci anche qual è il piatto, l'alimento, il cibo che ha caratterizzato la vostra estate, la focaccia, gli spaghetti alle vongole, il bombolone, la parmigiana. Mm-hmm. Le lasagne, Deborah, oppure la polenta concia, perché era anche tempo. Ah, no? Esatto, tempo... in certe zone di montagna sicuramente sono un po' sbizzarriti anche con questo tipo di ricette. Per me è stato il pomodoro fresco dell'orto di zio Piero. Fantastico, vedi, proprio alla Filippo. Ne ho mangiati una marea. Quella di questa sera sarà la cosiddetta psicocena, cioè cena della psiche. Che cos'è? È una forma di digiuno ideata dagli antichi monaci buddisti del VII secolo. Con la fantasia si crea l'illusione di un cibo che non c'è, perché non c'è, non c'è sta, con cui nutrirsi però fino a sazietà. In ogni caso, chi ben comincia a metà dell'opera, dottor Ongaro, a volte basta tornare alle abitudini quotidiane per ritrovare la forma, quindi si esce un po' meno a cena, si fa attenzione ai condimenti, meno gelati, si declina qualche invito per l'aperitivo. In ogni modo ci sono sempre delle trappole, lei le conosce tutte, ci aiuti un po' a localizzarle. In questo modo aiuteremo anche Giovanni, che ci scrive che ha perso 5 kg in ferie, però ne ha ripresi 3 e lui vorrebbe tornare al peso che aveva guadagnato proprio durante le vacanze. Dottor Ongaro. Ma io credo che al centro di questo discorso ci sia una cosa di cui abbiamo parlato abbastanza spesso, che è lo stress. In vacanza ovviamente ci arriviamo dopo un accumulo di tensioni, di stanchezze, mangiamo anche per rilassarci, per stare in compagnia, per distrarci, eccetera. Ovviamente al rientro diventa abbastanza difficile rinunciare all'effetto di piacere che il cibo e la socialità ci ha portato nel corso delle vacanze. Poi ci si aggiungono le immediate riprese delle attività quotidiane, quindi anche delle tensioni lavorative, eccetera, e magari abbiamo anche così legato un pochino il nostro palato a dei gusti un po' più forti, alla frutta molto dolce, ai formaggi più saporiti, il dolce, qualche bicchiere di vino di troppo, e quindi il distacco diventa ancora più doloroso, perché sono tutti alimenti ovviamente che danno un grande senso di piacere. Si può anche iniziare un po' passo per passo, insomma, per esempio sostituire la frutta più dolce con quella meno dolce, beh, è facile, basta seguire la stagionalità e ovviamente avremo la frutta più adatta nei vari periodi dell'anno. I formaggi possiamo cominciare a ridurli e magari soprattutto togliere quelli molto stagionati, che sono ovviamente anche i più grassi. Si può sostituire il formaggio con, non so, un pinzimonio. Possiamo anche semplicemente lavorare sulle quantità, cioè dire riduciamo di un tot le quantità di alimenti e già questo ha un effetto positivo. Poi secondo me un quindi altro... ad esempio in questa prima settimana di rientro le riduciamo di un terzo? Per esempio potrebbe essere di dire riduco di un terzo. Oppure... può essere anche utile, dottor Ongaro, come molte persone fanno, anche mangiare magari al spezzare, il consumare un primo piatto a pranzo e il secondo piatto a cena, quindi proteine, dividere proteine e carboidrati, come suggeriva un tempo la dieta dissociata, che è caduta un po' in disgrazia, ma che molti ritengono molto comoda, ecco. Ma sicuramente è una dieta, è un, cioè, chiamiamolo così, è un approccio alimentare che, anche se non viene più considerato una dieta, è in realtà molto utilizzato, nel senso che la maggior parte degli italiani mangia così. Cioè, un piatto, tende... ecco, un piatto e verdura. Però devo anche dire che i risultati, adesso non è che si può attribuire tutta la colpa a questo, però i risultati non sembrano molto positivi se si sta a vedere la tendenza ad ingrassare che anche in Italia si è manifestata in maniera così massiccia negli ultimi anni. Quindi io, come ho detto tante volte, sono più a favore magari di porzioni più piccole, ma di fare un pasto completo, che il famoso piatto unico di cui abbiamo parlato molto spesso, che prevede sempre una grande quantità di verdura, una piccola quantità di cereali integrali e una quantità diciamo variabile anche a seconda del peso corporeo di proteine, che siano proteine vegetali o proteine animali, in preferenza ovviamente al pesce. Secondo me questo è un approccio più completo, che può essere fatto ovviamente con dosi, chiamiamole così, differenti, e anche con alimenti molto variati, però il piatto unico, chiaro che se uno mangia soltanto la pasta a mezzogiorno, beh, tenderà insomma a mangiare una quantità abbastanza elevata in genere, insomma. Meglio il piatto del dottor Ongaro, così lo chiamiamo con Deborah, vero? Esatto. Ma che poi, ecco, chiariamo che non è il piatto mio, diciamo che è stata una proposta che ha fatto l'Università di Harvard abbastanza recentemente, per rendere così semplice, visivamente accattivante, facile da capire, la costruzione di un pasto ideale, chiamiamolo così. Allora, lo descriviamo questo piatto del dottor Ongaro, che in realtà è il piatto di Harvard. E dovremmo... ci fa venire anche un po' fame magari, va? Prendiamo il nostro piatto. Prendiamo il nostro piatto e visivamente, in maniera molto semplice, visivamente dedichiamo metà di quel piatto alla componente di origine vegetale, l'altra metà la ridividiamo in due, verrà un angolo in cui ci sarà spazio per i cereali integrali, quindi la pasta integrale, il riso integrale, quello che si vuole, e l'altro angolo per delle proteine, che possono essere a rotazione di tipo vegetale o di tipo animale per chi le mangia. Dottor Ongaro, naturalmente poi non dobbiamo barare sul volume di questo piatto, no? Non è che poi tutta la verdura, la parte vegetale deve andare verso l'alto e quindi essere, come dire, in un quantitativo spropositato, anche se la visualizzazione è corretta secondo le sue indicazioni. Ma diciamo che ovviamente questo è un sistema rapido, visivo per orientarsi, poi non è un sistema che prevede una pesatura, una quantificazione precisa, anche la dimensione del piatto può essere ovviamente un po' variabile. Certo è, uno può creare dei grattacieli su quei quegli spicchi, ma insomma credo che nessuno lo faccia in realtà. Se poi dopo crea il grattacielo sulla parte vegetale, beh, non c'è nemmeno nulla di male, perché avremo semplicemente più salute apportata dal mondo vegetale, quindi, e poche calorie, perché sappiamo che quell'area lì ci fornirà dei cibi che sono caloricamente poco densi, diciamo. 800 24 00 24, stanno già arrivando le telefonate delle nostre amiche e anche dei nostri amici. Andiamo subito a sentire che cosa ci raccontano, che forma hanno ottenuto dopo le vacanze. Come sempre la precedenza, se vuoi leggere... Vuoi leggere il messaggio dell'ascoltatore simpaticissimo? Giovanni? Certo. Allora, Giovanni è tornato con la tartaruga rovescia, ci scrive tra parentesi, per le grandissime colazioni a base di tutto. Ma secondo te perché le colazioni in vacanza hanno così tanto fascino? Per me sono irrinunciabili. Io farei solo la grandissima colazione e poi rinuncerai a tutto il resto, perché? Perché c'è più tempo, uno se la gode di più, poi sa che magari la smaltisce, ci sono tante cose buone che ci si può preparare avendo magari... senza andare di corsa in ufficio. E poi la colazione fa vacanza, ma è un'abitudine della vacanza che dovremmo portarci anche con la ripresa del lavoro. Allora andiamo da Elisabetta da Pordenone. Buongiorno. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno. La mia forma terracotta mi dà l'occasione di salutare il dottor Ongaro, che per me è un mito, so tutto, leggo, studio, applico, ma senza risultato. Dottor Ongaro, allora lei è il mito della nostra amica, ma la nostra amica non ottiene risultati, cosa sbaglierà? Sbaglia mito evidentemente. devo trovare. No, scherzo, una battuta, ma diciamo, mi fa molto piacere rimanere mitico nonostante la scarsità di risultati, questo è un ottimo segno magari di simpatia. Facciamoci raccontare dall'ascoltatrice quali sono le sue abitudini alimentari e per quale motivo non ottiene risultati. Che ecco, dice soprattutto, quello, cioè se i risultati non vengono perché non si riesce ad applicare qualcosa, oppure perché si applica ma c'è qualche intoppo che non è stato in qualche modo chiarito, questo è importante capirlo. Elisabetta. Io per quanto riguarda l'alimentazione credo di essere abbastanza giusta, io mangio secondo il piatto suddiviso in tre parti, devo dire che qualche volta pecco sulle proteine, non amo molto la carne, oggi sono bravissima perché ho miglio, verdura e salmone, quindi oggi è perfetto. Però solitamente mangio, tendo a tralasciare un po' le proteine. Io ci ho pensato, forse è una mancanza proteica e dovrei fare un tipo di esercizi più di tonificazione piuttosto che aerobica. E questa è la mia conclusione. Senta profana, Elisabetta, mi racconta, scusi Elisabetta se le interrompo, perché ci aiuta anche a capire. Che forma ha Elisabetta? Lei ha detto una pera cotta. Pera cotta perché naturalmente la mia ciccetta si concentra dall'ombelico in giù ed è molliccia come la pera cotta. Ma io mi accontenterei anche di una pera, però la vorrei più soda, più insomma, soda, una quindi... pera Kaiser. Senta, ma bravissima, sì, quelle belle turgide, insomma, che appese all'albero. Dottor Ongaro, la forma fa la differenza, perché a seconda della forma, noi abbiamo giocato un po' con pera, mela e peperone, ci sono dei programmi per riacquistare la forma ottimale. Sì, credo che abbia intuito molto bene in realtà l'ascoltatrice, perché nelle situazioni come queste, dove il grasso si accumula soprattutto nei distretti inferiori del corpo, correggere l'alimentazione è un passo fondamentale, ma quasi mai è un passo sufficiente e risolutivo, premesso che per tutti l'inserimento di un'attività fisica completa che preveda sia una componente aerobica che una componente di tonificazione è importante, ma per questi soggetti qua lo è in maniera decisiva, nel senso che quel grasso intrappolato nel sottocutaneo è un grasso molto difficile da bruciare e bisogna riattivare la muscolatura e la circolazione di quei distretti per poterlo mettere in gioco. Quindi credo che se c'è qualcosa da correggere nell'approccio dell'ascoltatrice sia sicuramente questo, insomma. E il dottor Ongaro, magari dopo il mercato torneremo con magari uno schema per capire che tipo di attività fisica, con che frequenza, come intrecciare l'attività aerobica, anaerobica, come sottocutaneo, far ridurre il nemico da combattere per i prossimi mesi. Cuore e denari. La nave è come una nave, ed essendo una nave è abbastanza normale che vada in mare. Il mare, com'è naturale. Certo, una nave è normale che vada in mare, ma di normale c'è stato ben poco nella vicenda della compagnia Go in Sardegna, che ha causato moltissimi disagi e già tanti di voi ci hanno scritto a chi dalla Sardegna appunto doveva tornare dopo le proprie vacanze. Direzione chiaramente Livorno, Toscana, 80024, per poi ritornare ovviamente nelle proprie città. 80024 0024, se la vostra vacanza è stata rovinata per questo motivo o per uno degli altri disagi di questa estate 2014, dei bagagli smarriti al maltempo. Tempo, le difficoltà non sono mancate. Dedicheremo a questo tema la seconda parte della trasmissione. Se mangio il primo, mangio un contorno. Se mangio il secondo, mangio seconda frutta. Di norma è un piatto di pasta e accompagnato poi da un piatto di verdura. Il secondo col contorno. Pasta no, a pranzo mai, perché la mangio la sera. Anch'io secondo col contorno e poi, vabbè, c'è il cioccolato. Io vivo di cioccolato, per cui non potevo non prenderlo. Voi che fate per ritornare in forma o per mantenere la forma dell'estate? 800 24 0024, dottor Ongaro in linea con noi, eccolo qui. Dottore, ciascuno di noi però in realtà sa bene che cosa deve fare per ritornare in forma. Le pere sanno che per buttare giù quel grasso che si accumula soprattutto nelle gambe e nei glutei si deve fare più esercizio fisico e alternando attività aerobica con i pesi, come lei ha suggerito alla nostra amica che si definiva una pera cotta. Ma questa è l'indicazione di massima, la teoria, ma in pratica cosa significa? Quante e quale attività aerobica fare? Quanta e a che frequenza? E come si inseriscono i pesi? È necessario proprio andare in palestra? Allora, intanto passare dalla teoria alla pratica significa appunto mettere in pratica, quindi la prima cosa è non cercare alibi, non cominciare subito a dire non c'ho tempo, non ce la faccio, è impossibile, eccetera, perché altrimenti rimane teoria anche se la specifichiamo più nel dettaglio. Poi il discorso di come costruire un programma di allenamento è piuttosto complesso e va anche visto in varie tappe, perché ovviamente man mano che si migliora bisognerà adeguarlo. Ad ogni modo credo che per ottimizzare le condizioni diciamo di sovrappeso, bisogna sempre comunque abbinare un'attività di tipo aerobica anche a bassa intensità, quindi significa ad un ritmo non troppo elevato, una frequenza cardiaca non troppo elevata, che può essere una camminata, un po' di cicletta o qualsiasi altra forma di attività aerobica che attiva il metabolismo e aiuta ad attivare il consumo proprio di grassi, abbinarla però sempre appunto anche ad un'attività con i pesi che sviluppa la muscolatura e contribuisce ad aumentare il circolo nelle zone dove il grasso si è depositato. L'ideale, per esempio, tanto per fare un esempio iniziale, potrebbe essere quello di fare un 20-30 minuti di attività aerobica a digiuno al mattino prima di colazione, in modo da attivare il metabolismo e garantire che questa attività sia sostenuta dall'utilizzo dei grassi, e poi abbinare questa invece alla sera, al pomeriggio alla sera, con una seduta in palestra, magari con i pesi, da fare 3-4 volte alla settimana. La durata non deve essere necessariamente lunghissima, 20-30 minuti al mattino e un 45-50 minuti massimo 3-4 volte alla settimana, secondo me si può fare anche a casa, si possono usare gli elastici, si possono comprare i pesetti eccetera. Secondo me la palestra offre ancora dei vantaggi, perché ovviamente intanto sei sicuro che c'è qualcuno possibilmente che ti insegna a fare gli esercizi in maniera corretta, poi la varietà degli strumenti e delle attrezzature ti annoia meno, certo. Esatto, ti annoia meno e permette un programma un pochino più efficace, insomma. Lei ha detto a digiuno, Sì, hai sentito, Deborah, al mattino a digiuno, rende di più? C'è un grande dibattito scientifico attorno a questo concetto dell'attività fisica al mattino a digiuno oppure no. Diciamo, per semplificare e non perdere troppo tempo, che sicuramente farla a digiuno al mattino, premesso che sia di intensità bassa, quindi al mattino non va fatta a digiuno una corsa a tutta velocità, perché in quel caso non userò grassi ma userò zuccheri, siccome non ho mangiato gli zuccheri il corpo se li pescherà dai muscoli distruggendo tessuto muscolare, questo non va bene. Però se l'attività è blanda, quindi è un'attività a bassa intensità, per esempio una camminatina veloce, un po' di tapirulano, un po' di ciclette, allora lì si utilizzano i grassi e siccome non ho mangiato andrò a pescare i grassi che sono depositati. Hai visto? Certo, molto interessante. Prima di colazione. Molto interessante, questo sì. È un po' il segreto. Allora, andiamo a Massimo da Pisa, che poverino sta aspettando da tanto. Massimo, buongiorno. Ecco, infatti ha talmente aspettato che ci ha mollato qua in diretta. Allora andiamo ai messaggi. Andiamo ai messaggi, ma intanto volevo chiedere al dottor Ongaro se ha letto quella ricerca secondo cui noi donne ci mettiamo a dieta con grande facilità, ma dopo 12 giorni molliamo il colpo. Mentre gli uomini sono più restii, ma quando prendono la decisione vanno fino in fondo. Dottor Ongaro, certo che prendere lezioni dagli uomini per mettersi a dieta è veramente uno schiaffo per noi donne, no? Che solitamente organizziamo la dieta e la giornata dei nostri compagni, mangia questo, mangia l'altro, invece alla fine poi ci battono. Secondo lei è così nella sua pratica, vede questo? Ma allora è così, ma bisogna anche capire il perché, cioè io credo che una delle ragioni sia che le donne sono più esposte a una costante pressione legata al loro peso, alla loro forma fisica, a una questione estetica, spesso è una pressione esterna, quindi non è una vera motivazione personale, ma è più perché qualcuno te lo dice, perché il marito si lamenta, perché hai visto la pubblicità di un sacco di donne in perfetta forma, quindi inizi, ma poi non essendoci una motivazione forte dietro, alla fine magari abbandoni. L'uomo è più restio, almeno per adesso, perché poi magari questi canoni cambiano col tempo, ma comunque l'uomo è più restio perché è esposto a meno pressione su questo versante, ma quando lo fa probabilmente lo fa più per delle ragioni mediche e salutistiche, perché effettivamente è molto più sovrappeso, c'è un pochino costretto, bravissimo, e quindi a quel punto magari va anche un po' più a fondo, ecco. Allora, un ascoltatore o un'ascoltatrice, non so, non si firma, dice: ho 67 anni, ho preso 18 kg in 9 anni, quindi qua due all'anno, lisci lisci. Dopo una dieta peso 80 kg, vado a piedi, non so quante volte a settimana, bici 35-40 km, non so quante volte a settimana, sul messaggio un po' confuso. In ogni caso, grande attività sportiva, dice, ma non perdo un grammo. Qua c'è da rivedere sicuramente qualcosa nell'alimentazione, così a occhio, dottor Ongaro. Sì, Intanto bisogna capire quanto ha perso in precedenza e non è detto che abbia ancora bisogno di perdere, questo non lo si capisce dal messaggio scritto. Esatto, così. Bisognerebbe intanto suo uomo donna, altezza e sì, tutto. Certamente se una persona comunque fa molta attività fisica e ha ancora bisogno di perdere peso, è chiaro che evidentemente la variabile su cui lavorare rimane invece, rimangono due, rimane l'alimentazione e rimane la terza variabile, che è quella forse di cui ci dimentichiamo più spesso, che è la parte psicoemotiva, lo stress e tutta quella componente diciamo più psicologica che tendiamo a mettere da parte, ma che poi è quello che ci porta a sgarrare, a perdere un pochino il filo del discorso, insomma. Allora, mi sono messo a dieta ferrea, frutta e verdura, tonno al naturale, ci scrive, solo acqua, in 3 settimane 6 kg. Ho esagerato, ci scrive Davide da Verona. Dottor Ongaro, molto spesso, seguendo le indicazioni dei medici, dei nutrizionisti, si ha l'impressione di non ottenere risultati e ci si scoraggia. Allora, che cosa si pensa di fare? Si dice, va bene, mi metto, no, di buzzo buono, come si dice, questa settimana cerco di stare molto a stecchetto, così perdo qualche chilo, esatto, mi rincuoro e poi riparto con un'alimentazione, anche col piatto del dottor Ongaro, col piatto di Harvard. Dottor Ongaro, lo spunto ce lo suggerisce il messaggio di Davide da Verona, ma potrebbe essere una buona idea dare un colpo iniziale, un risveglio del metabolismo per perdere rapidamente quei chiletti in più e poi mettersi a seguire uno stile alimentare che sia più equilibrato, e quindi il famoso piatto? Ma sì, in genere la risposta potrebbe essere sì, è chiaro, se all'inizio ottengo dei risultati da un punto di vista emotivo e della volontà sono più appagato e quindi poi sono meglio disposto a continuare nel tempo. È anche vero però che sappiamo che c'è una correlazione tra la velocità di perdita di peso e la tendenza a riprendere il successivo, cioè quando qualcuno dice ho esagerato, poi significa anche che farà abbastanza fatica a restare ad un regime comunque regolare, perché se si è privato troppo prima la tendenza naturale sarà poi quella a non farcela più. Quindi bisogna insomma un pochino trovare l'equilibrio, che è un po' diverso per ognuno di noi, dipende da tanti fattori. Nei colloqui con i pazienti questa è una parte importante, capire se è meglio partire un po' più forti perché il paziente ha bisogno di motivazione, oppure andare invece un pochino più regolari e con calma. Insomma, è un approccio diverso per ognuno in realtà. Abbiamo anche il tempo di dedicarci, dottor Ongaro, alle mele e ai peperoni, a chi ha assunto questa conformazione durante le vacanze, magari proprio perché, come dire, essendo un po' penalizzato anche dal punto di vista della costituzione, magari ha seguito un'alimentazione in vacanza sbagliata che ha accentuato queste forme. Sì, beh, diciamo molto rapidamente che insomma la forma a mela è quella più legata, come dicevamo prima, alla regolazione della glicemia e alla produzione di insulina, quindi bisogna fare molta attenzione ovviamente ai dolci, agli aperitivi, agli alcolici, ai cereali raffinati mangiati troppo spesso. Sì. E forse il punto di partenza un pochino più centrale è quello per questa tipologia di paziente. Devo anche dire che in genere, proprio perché è un accumulo di grasso, da un lato più pericoloso, ma da un lato più metabolicamente correlato a questi fattori nutrizionali, risponde anche più rapidamente alla dieta rispetto appunto all'accumulo. Insomma, la pancia va più giù del sedere, è così, più concrete di così non si può. E il peperone deve mescolare un po' pere e mele e deve stare a dieta e fare attività fisica, insomma il peperone gli tocca tutto. Sì, che poi tra l'altro non fa male a nessuno, insomma, abbinare le due cose, ecco, non è che quello che ha la conformazione a mela fa l'attività fisica gli fa male. No. Senta, dottor Ongaro, magari la domanda di Andrea la leggiamo noi senza farlo intervenire. È preoccupato per la linea della moglie perché dice che da quando va in palestra è ingrassata e non va bene. Allora, sicuramente acquisiamo tono muscolare e questo qualche volta fa prendere anche chili, ci spaventa un po', ma in realtà il fisico sta meglio. Dottore, questo lo dico anche per esperienza personale. Detto questo, però, magari, che ne so, andare in palestra, si ha un po' più fame. Nicoletta, tu che dici? Ma se porta... magari c'è una splendida pasticceria lì vicino, uno dice senti, ha fatto 2 ore di addominali, me lo faccio un babà e via di babà. E, dottor Ongaro, lei ride, però è un po' così, tante volte ci si gratifica dopo lo sforzo fisico. No, allora è evidente, allora la prima cosa che diceva Deborah è verissima, bisogna stare attenti a non confondere un aumento di peso con un aumento di grasso, perché può essere un aumento di muscoli e lì la situazione è completamente diversa e la palestra ha dato il risultato voluto. Se però invece fare palestra diventa una ragione per mangiare il doppio, allora lì, perché fino ad un certo punto l'attività fisica compensa l'errore alimentare, però ho superato un certo livello, no. E quindi se questo è effettivamente il caso, lì torniamo al discorso di dire attenzione, di non fare attività fisica per poi concedersi appunto il babà al bignè appena uscite dalla palestra, insomma non è l'approccio più corretto. Ecco. Dottor Ongaro, torni prestissimo a trovarci. Sarà fatto. Grazie. E noi adesso... A voi. Buona ripresa anche buona a lei. Buona continuazione. Cuore e denari. C'era una volta un piccolo naviglio. Go in Sardegna ci riprova e stavolta alza il tiro. Due navi noleggiate dalla greca Anek Lines e 28 mesi di operatività a partire da oggi, con il viaggio inaugurale della Sophocles sulla Olbia Livorno, rotta che sarà servita giornalmente con tappa settimanale al porto Olbia. Il consorzio di Santa Teresa di Gallura, che raccoglie 200 imprenditori turistici, non nasconde le difficoltà legate all'acquisto del carburante dopo l'avaria a un motore per un carico sporco e ritardi accumulati fino a 12 ore del traghetto il Veniselos. Ma punta... Attenzione, venerdì sera al porto di Livorno. Quasi 2.000 passeggeri sono rimasti bloccati a terra per un ritardo di 10 ore accumulato dal traghetto della compagnia Go in Sardegna. Se questa storia poi non vi annoia. E allora, pensavi che la puntata del 25 agosto dedicata ai disagi di alcuni vacanzieri fosse sufficiente? E che ci potesse permettere di archiviare l'argomento vacanze rovinate 2014. Me lo auguravo, soprattutto per i vacanzieri. Esatto, tu sei tornata tranquillamente dal tuo viaggio e invece dobbiamo riaprire questo triste capitolo, perché la grana più grossa è esplosa proprio pochissimi giorni fa e ha avuto come malcapitati protagonisti tutti i turisti italiani in vacanze in Sardegna. Famiglie che avevano prenotato il viaggio con la compagnia Go in Sardegna per la tratta Olbia-Livorno e anche al contrario Livorno-Olbia, perché poi ci ha scritto un ascoltatore che è su questa tratta all'andata che ha avuto dei problemi, questa compagnia ha ben pensato di interrompere ogni servizio proprio l'ultima settimana di agosto in concomitanza con il grande rientro praticamente di tutti gli italiani. Partenze ritardate o annullate, si parla almeno, adesso non so se questa cifra sia confermata, di almeno di 20.000 persone che hanno subito le conseguenze di questa situazione e che non sono state riprotette dalla compagnia. Pertanto per rientrare a Livorno hanno dovuto rivolgersi ad altre società, ricomprare i biglietti e subire tutto il danno che possiamo immaginare. Allora 800 24 00 24, oggi torniamo a invitare chi di voi ha avuto una vacanza rovinata a chiamarci e a raccontarcelo, perché con i nostri esperti vi daremo dei consigli. In particolare vi invitiamo a comporre il nostro numero verde se siete tra i malcapitati passeggeri di Go in Sardegna, o se siete amici, familiari, avete dei colleghi che sono rimasti coinvolti nei disservizi di questa compagnia, ci interessa sentire proprio i racconti dalla vostra viva voce. Fatelo anche se siete arrabbiati. Esatto, no, saranno sicuramente tutti arrabbiati. Chissà se lo è Paolo della provincia di Brescia. Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Paolo, tra l'altro, tra gli animatori del ovviamente spontaneo gruppo che si è formato su Facebook, perché poi quando capitano queste cose immediatamente il social network è il primo canale che si attiva per denunciare, no? L'accaduto. Ci racconta la sua storia, quella della sua famiglia? Sicuramente, dunque io ho prenotato ancora in febbraio con questa compagnia sulla base dell'esperienza di alcuni amici che l'anno scorso l'avevano già presa. Ma che cosa aveva di allettante il prezzo? Chi gliel'ha fatto fare, mi verrebbe da dire, no? Ma allora, col senno di poi sono piene le fosse. Certo, purtroppo negli ultimi 3-4 anni le altre compagnie famose hanno fatto un cartello per cui i prezzi sono più che raddoppiati. E loro dicono che non è vero, tra l'altro, invece è vero e come? Io ho 12 anni che vado in Sardegna tutti gli anni e da un anno con l'altro, dal 2010 al 2011 se non sbaglio, da 250 euro che si spendeva si è passati a 500 euro. Quindi Go in Sardegna, che risparmio, Paolo? Detto questo, per me quest'anno erano 250 euro di risparmio, a parità di tratta e di servizi, diciamo così. Ne ho spesi comunque 600 e avrei dovuto spenderne 850. In ogni caso io ho prenotato il giorno prima di partire, la mia partenza era prevista il 2 di agosto alle ore 21 Il giorno prima di partire, intorno alle 17.30, ricevo un SMS che mi comunica che la partenza, invece di essere fissata per le 21 del 2 agosto, veniva posticipata al 3 agosto alle 10 di mattina. Al che ovviamente testimonianza per me... simile ad un ascoltatore che ci ha scritto peraltro, Paolo, ecco, al che per me non era assolutamente concepibile, in quanto viaggiavo anche con amici che dovevano scendere fino a Cagliari e sarebbero dovuti arrivare a Cagliari in piena notte con non la possibilità di ritirare il proprio appartamento prenotato, per cui mi sono informato, ho visto che il codice della navigazione prevedeva la possibilità di un rimborso e in partenza abbiamo prenotato con un'altra compagnia. Il giorno prima, trovando tra l'altro prezzi anche abbastanza allettanti, perché probabilmente hanno scontato i prezzi all'ultimo momento di altre compagnie. Se non che sono arrivato là, prima di partire ho fatto subito immediatamente richiesta di rimborso tramite mail, sia certificata che non certificata, e la prima brutta notizia è che non ho tuttora ricevuto nessuna risposta da parte loro. Dopo ho fatto la mia vacanza, alcuni giorni prima di rientrare ho cominciato a tenere sotto controllo, diciamo così. Il rientro è stato facile o indolore? Io posso essere tra quelli più fortunati in assoluto, perché sono riuscito a prendere l'ultimissima corsa prima che venisse bloccata la nave. Ho capito. Però l'ultimo giorno è stato veramente un'odissea. Lei che tipo di richiesta di indennizzo ha fatto, Paolo, di tutto l'importo, gli 600 euro iniziali? No, io anche per rispetto degli altri, visto che non so se tutti riusciranno a prendere i soldi, ho chiesto il rimborso solo alla tratta di andata, perché il ritorno l'ho effettuata, diciamo. Ha fatto bene. Per cui, però mi lasci dire un'ultima cosa, sicuramente questa cosa qua è stata gestita male anche dai politici locali della regione, perché non si può non prevedere dei servizi alternativi della gente che va in Sardegna, che fa le vacanze e porta dei soldi dove l'economia è già... Sì, anche perché là è veramente in ginocchio l'economia e si sorreggono davvero esclusivamente quasi solo sul turismo. Grazie Paolo, io volevo andare a sentire qual è il punto della situazione in questo momento. Nicoletta, ho il piacere di presentarti l'ammiraglio Nunzio Martello, comandante della Capitaneria di Porto di Olbia, che ha gestito, purtroppo per lui, perché naturalmente poteva anche, come dire, essere un po' più sereno in queste ultime settimane, la task force speciale che è stata costituita proprio per fronteggiare questa emergenza. Ammiraglio Martello, benvenuto a Cuore Denari. Grazie, buongiorno a tutti e anche agli ascoltatori. Ci dice qual è la situazione in questo momento? Sono riusciti a ripartire tutti quelli che avrebbero dovuto farlo in questi giorni o ancora abbiamo qualche strascico? Siamo riusciti ad assorbire finora tutti coloro che hanno richiesto di rientrare in continente, quindi diciamo che la situazione è abbastanza tranquilla, non vi sono code e il traffico, diciamo, è ordinario, quindi non abbiamo finora problemi particolari. Senta, noi abbiamo anche stampato questa mattina un comunicato stampa che è stato diffuso proprio nelle ultime ore da parte del gruppo. C'è un rimpallo di responsabilità, parte con l'armatore che ha messo a disposizione i mezzi per naturalmente fare questi tragitti, poi c'è tutta una polemica fra i soci fondatori di Go in Sardinia e l'attuale amministratore unico, polemiche nelle quali naturalmente noi non vogliamo entrare questa mattina. Ma lei che idea si è fatto di tutta questa vicenda, ammiraglio Martello, anche se so che il vostro ruolo magari non vi consente di esprimere un giudizio, ma magari un po' lei si sarà sentito anche un po', avrà avuto un po' di disappunto, no? Insomma, sul dover gestire questa task force. Deborah la invita a sbottonarsi un po', ammiraglio. Ecco. Guardi, il disappunto come cittadino è certamente una contrarietà, ma soprattutto come sardo, come facente parte appunto di questa bellissima terra. Ovviamente non è un'immagine bella che danno, che si dà alla collettività, però dobbiamo anche evidenziare quando le cose vanno bene, cioè l'emergenza, ritengo che sia stata gestita in modo abbastanza buono e quindi ovviamente l'amarezza c'è in tutto, anche perché si fa tanto per far sì che la gente venga qua in Sardegna e poi ci sono questi problemi che fanno venire meno tutta l'attività che uno in modo costantemente fa. Certo. È un'amarezza doppia per chi lavora bene, soprattutto. Ammiraglio, non si poteva prevenire. Adesso, guardando la situazione, lei avrebbe magari immaginato un'azione o che poteva in qualche modo preallertare o insomma non portare la situazione in questa condizione? Che cosa si sarebbe potuto fare? Ecco, sempre con quel famoso senno del poi. Ma guardi, col senno del poi, come si suol dire, sono piene fosse, uno non è che può dire cosa si poteva fare. Ovviamente questi sono dei rapporti privati tra Gomez Sardinia e l'armatore, e che dovevano essere regolati, che sono regolati da contratti privatistici, per cui tutti i comportamenti posti in essere dalla società saranno valutati, e se c'è qualche responsabilità verrà. Grazie ammiraglio Martello, buona giornata. Io saluto solo rapidamente l'avvocato Marco Gagliardi. Avvocato, buongiorno. Buongiorno Deborah, Nicoletta. Buongiorno. Che sarà con noi a partire dalle 12.10 per cercare di dare qualche istruzione a tutti i viaggiatori che sono rimasti vittime appunto di questa vicenda. Cosa fare per recuperare quanto hanno speso? A tra poco. Cuore e denari. Prima di partire per un lungo viaggio. Allora, siamo stati avvisati oggi intorno alle 5 con un SMS. Mentre ovviamente eravamo quasi arrivati. Una vacanza che parte così male, comunque una vacanza che parte già in sé rovinata. Siamo arrivati qui alle 7, quindi in tempo per prendere il traghetto delle 10:15. C'era già resta quella specie di ufficio, 3 o 4 persone dentro che non davano risposte assolutamente. Alle 10:15 devo imbarcare domani alle 8 della mattina. Vedete voi, è un anno che aspetto andare in vacanza, un anno che mette soldi da parte per fare la vacanza, e i signori si permettono anche di dirmi se vuole viene a casa mia a dormire. Allora, intanto dobbiamo dire che questo collage di servizi lo abbiamo fatto grazie a Marco Lombardo, dai pezzi che naturalmente sono andati in onda anche sulle TV private oltre che nazionali, raccolti un po' da YouTube, un collage per sentire un po' le testimonianze di questi viaggiatori molto arrabbiati, no Nicoletta? Anche d'altra parte ragionevolmente, no? Eh sì, cosa devono dire? Col caldo, insomma, non parti, hai speso dei gran soldi, magari c'hai pure dei bambini seguito. Hai fatto dei programmi. Ecco. Appunto, quindi ieri oggi abbiamo dedicato le nostre trasmissioni alla difficile ripresa dopo le vacanze per le tasse, anche per la forma fisica, ne abbiamo parlato oggi, e pensate come stanno ripartendo arrabbiati tutti coloro che hanno scelto la Sardegna quest'anno come meta della loro estate 2014 e che hanno avuto un finale di vacanza proprio col botto a causa dell'interruzione del servizio della compagnia Go in Sardinia. Ne abbiamo già anticipato alcuni termini di questa vicenda nella prima parte del programma, vicenda che ha obbligato migliaia di persone a rivolgersi ad altre compagnie per rientrare, ripagandosi così un nuovo biglietto. E su questo punto ora si sono messe al lavoro le associazioni dei consumatori. Sentiamo cosa potranno fare questi viaggiatori sfortunati. Come vi dicevo, abbiamo con noi l'avvocato Marco Gagliardi, responsabile settore trasporti del Movimento Consumatori. Di nuovo buongiorno, avvocato. Buongiorno. Allora, cosa potranno fare? Tornerei un attimo su quello che ha detto il primo ascoltatore che è intervenuto, su due aspetti. Il discorso degli incrementi che ci sono stati nei costi, nelle tariffe applicate dalle altre compagnie, e questo è stato accertato anche dall'antitrust l'anno scorso, che ha realizzato un cartello. Quindi ben venga l'ingresso nel mercato di nuovi operatori low cost, soprattutto di un soggetto come Go in Sardinia, che è un consorzio di 200 piccoli imprenditori che si sono riuniti per rilanciare il turismo e offrire biglietti low cost, quindi più accessibili a tutti i turisti. Poi è successo questo patatrac, che cosa si potrà fare? No, noi una soluzione ce l'abbiamo, l'abbiamo già proposta formalmente a Go in Sardinia, e a nostro avviso potrebbe risolvere scenari tragici che possono, invece, se non venisse adottata e se non venisse seguita questa strada che seguiamo, potrebbero aprirsi. Cioè, noi proponiamo una procedura paritetica di conciliazione, cioè di sederci a un tavolo insieme anche alle altre associazioni naturalmente e di discutere caso per caso. Questo per evitare che ci sia una pioggia di cause in tutta Italia presso giudici di pace, del foro del consumatore, di passeggeri sparsi su tutto il territorio, che sicuramente andrebbero ad affossare il patrimonio della compagnia. Cioè, ma voi come lo vorreste, in che misura quantificare eventualmente questo rimborso generalizzato, avvocato Gagliardi? Allora, caso per caso sì, però... Cioè, allora, sarebbe una procedura anche per i rimborsi dei biglietti, quelli sono dovuti, nel senso che se quindi partendo per scontato che intanto ha rimborso integrale del biglietto, quindi della spesa, E parliamo anche di cifre importanti, perché come avrete visto anche voi, per come hanno detto anche gli ascoltatori che sono intervenuti, per riacquistare all'ultimo minuto dei biglietti per intere famiglie, insomma i costi sono stati particolarmente elevati. Quindi il rimborso, diciamo, della prima spesa più di quella che si è dovuta sostenere con il riacquisto di un altro biglietto presso un'altra compagnia. Partendo e poi ci sarebbe un discorso di risarcimento del danno, nel senso che qualsiasi spesa e costo per una permanenza forzata sull'isola deve essere rimborsato. Volendo ci possono anche essere danni ulteriori, come il cosiddetto danno morale, ecco, di disagi, perché è un appuntamento che è saltato, vero? Tutto per danno morale si intende tutto quello che è extra il danno patrimoniale, lo stress, l'arrabbiatura, il disagio, la sofferenza, per cui parliamo anche di vacanze, per cui che dovrebbero essere finalizzate allo svago e non ad accumulare stress. Mi scusi, avvocato, ma io non capisco, me lo spieghi lei come si fa a quantificare tutto questo, danno patrimoniale e danno morale? Ma cioè, allora, il danno patrimoniale, i biglietti è facile, no? La perdita magari di un giorno di lavoro. La situazione legale, cosa che noi appunto vorremmo evitare, sappiamo che le richieste di danno sono le più svariate. Se ci si siede a un tavolo e si discute, si mettono dei paletti, come abbiamo fatto in tanti altri casi in passato, per crack finanziari, penso ad esempio crack Cirio, Parmalat con le banche, si possono definire dei paletti e cercare di capire e schermare anche senza la necessità di andare davanti a un giudice e discutere con testimoni, eccetera, accumulare spese su spese in modo, diciamo, low cost, i risarcimenti dei danni laddove sono ipotizzabili. Facciamo una cosa, Nicoletta, sentendo le testimonianze degli ascoltatori, non so perché sento questo rientro, se è colpa dell'avvocato. Perché sei anche tu in alto mare. Senti. Abbiamo fatto già i problemi dell'udito post vacanza col dottor Burdo settimana. Bisogna richiamarlo. Esatto, forse io con qualche giorno di ritardo. Sentiamo. Intanto possiamo chiamare i nostri ascoltatori. Abbiamo Ivano da Torino. Certo. Un torinese all'800240024 che sarà andato in Sardegna. Buongiorno. Da cosa l'hai capito? Perché ha chiamato e poi. Ivano, salve. Buongiorno, sono proprio di ritorno da Livorno, sono a Genova, che sto andando verso Torino. Quindi è proprio calda la sua situazione. Caldissima. Io ho prenotato a metà luglio con la Go in Sardegna, ho fatto sia andata che ritorno, con partenza il 18 agosto, ritorno il 1 settembre, quindi ieri sera. Viaggio di andata, monitorando sul sito, visto che fino al 16 ci sono stati ritardi su ritardi, poi dopo Ferragosto, diciamo, la nave proseguiva abbastanza bene. Quindi le faccio solo una parentesi, Ivano, danno morale, già lui era un po' stressato alla partenza perché stava controllando quello che accadeva i giorni precedenti e tutti partivano in ritardo, quindi già lui è partito preoccupato, no Ivano? Perché sì. Vabbè, poi, preoccupato quanto, Ivano? Preoccupatissimo. 200 euro, 300 euro. Però, insomma. Preoccupatissimo, però monitoravo la situazione. È partito? Sono partito in orario, ovviamente c'erano già si parlava che la nave andava più piano perché doveva risparmiare del carburante, infatti rispetto alle altre compagnie, comunque da 7 ce l'abbiamo messa 11 nel 2014 ore. Questa proprio non si può sentire, no? Come se, vabbè, comunque. Vabbè. E poi? E poi siamo arrivati, quindi la vacanza è andata bene, sei divertito, Ivano? Tutto bello. E poi cominciò di nuovo a monitorare di nuovo il sito, perché prima l'ultima settimana di nuovo ritardi su ritardi. Poi faccio una bella escursione in barca, ricevo la chiamata di mia mamma che sul TG1 c'è stato un bel servizio che Go in Sardegna interrompe tutto quanto. Vedi le mamme. Allora, Ivano, quindi sempre utili, sì. Troppo detto, utili. Mamma, non ti preoccupare, tanto sono a Santa Teresa di Gallura, lì c'è la sede della Go in Sardegna, vado, scendo dall'escursione, finito l'escursione mi precipito in sede. Mi precipito in sede, serrande serrate. Tutto chiuso. Cosa ha fatto? È riuscito a partire con Go in Sardegna per tornare o ha dovuto rivolgersi ad un'altra compagnia, Ivano? Vedendo le serrande chiuse, sono andato in hotel, mi sono riprenotato su un'altra su un'altra compagnia. E magari anche perché questa settimana poi non sono più partite, in realtà poi settimana precedente dicevano di come dire, suggerivano ai passeggeri di rivolgersi ad altre compagnie perché non sarebbero partite, ma in realtà poi qualcuna di queste di questi traghetti, avvocato Gagliardi, partiva lo stesso, pur comunicando al passeggero il contrario. Pure questo c'era, no, di danno e la beffa, direi, avvocato. Quindi anche in questi casi comunque si può parlare di danno, anche se poi appunto andare coi piedi di piombo nel parlare di danno morale, illudere che sia ottenibile, soprattutto in un contesto come questo. Infatti mi sembra un po' difficile. No, perché volevo appunto raccontare anche questa storia di chi ha ricevuto dalla compagnia il messaggio che l'imbarcazione non sarebbe partita, poi in realtà la nave partiva lo stesso, il traghetto partiva lo stesso e nel frattempo loro se ne erano comprato un altro di biglietto. Forse questo è capitato alla compagna di Duccio da Pisa. Duccio. Ci sono? Duccio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sì, sì, è successo così. Praticamente la sequenza dei messaggi della compagnia è stata questa. Alle 12 hanno detto che il traghetto avrebbe fatto ritardo e poi sarebbe partito alle 3 di notte. Questo ce l'aspettavamo perché noi anche in partenza abbiamo avuto ritardo. Sì. Però alla partenza non ci hanno dato messaggi. Noi fortunatamente siamo vicini al porto, in 10 minuti siamo arrivati al porto, insomma non è stato un grande disagio. Avevamo bambini in macchina, vabbè, pazienza. Alle 18 praticamente ci dicono che invece la nave non sarebbe partita più e praticamente c'è tramite messaggio e quindi praticamente di riorganizzarsi, arrivare ad Olbia dalle 18 alle 20 e andare con la Tirrenia che avrebbe garantito non so quanti posti per partire. Ora il punto è che la Sardegna non è proprio logisticamente così comoda da attraversare. Noi eravamo alla Maddalena, c'era un altro traghetto da prendere, sono trasferito e quell'altro fondamentalmente non erano pronti perché il primo messaggio è che si partiva alle 6 di notte e quindi non sono partiti. Fondamentalmente poi ho controllato il sito e sul sito invece c'era questo messaggio di organizzarsi con altre compagnie. Perché non sarebbe partita la nave comunque. Allora a questo punto sono andati in agenzia, hanno fatto un biglietto per il pomeriggio del giorno dopo con una compagnia di quelle Mobi o Corsica, non voglio fare pubblicità. Sì, vabbè, insomma, pagando anche una fracca di soldi, insomma, pagando anche una fracca di soldi per un ritorno diurno senza cabina, quindi fondamentalmente. Quanto, cioè? Quello che ci vuole. Ce lo quantifico. 431 euro. Con due bambini e un adulto con una macchina. Senza la cabina. E, praticamente però poi dopo alle 20, che il biglietto era già stato fatto, è arrivato un altro messaggio che la nave il giorno dopo alle 9, esatto. Il giorno dopo alle 9. E di lì noi siamo toscani, sono cascati tutti i santi fondamentalmente. Fondamentalmente uno ha pagato il biglietto, cioè certo. La comunicazione è stata pessima. Duccio, chiarissimo, guardi, è la medesima situazione che è capitata a molti. Allora, avvocato Gagliardi, abbiamo capito benissimo che voi lotterete per l'ottenimento e riconoscimento del danno patrimoniale, ma proprio il morale, insomma, allora in quali casi va? Perché qua sembrano veramente le persone prese in giro, no? La nave parte, non parte. Ci sono anche degli obblighi di informazione in caso di cancellazione che sono previsti da un regolamento comunitario, questioni di cui si può occupare anche l'autorità garante della concorrenza e del mercato o l'autorità dei trasporti se interverrà anche nel trasporto marittimo. Appunto la funzione di una procedura di conciliazione si potrebbe sostituire a quella di valutazione equitativa che potrebbe fare un giudice di pace di questi danni che non sono quantificabili al centesimo, diciamo. Poi in un caso come questo il fatto che sia stato comprato comunque un biglietto di un altro traghetto comporta un danno patrimoniale che secondo a mio avviso, anche se poi il traghetto è partito, visto che c'è stata una violazione degli obblighi di informazione, certo, deve essere rimborsato. Senta, avvocato, adesso sentiremo ancora un paio di testimonianze, più o meno hanno tutti lo stesso tenore, anzi Andrea erano anche in tanti, vedo, quindi sarà anche interessante sentire quello che è capitato a lui. Ed ma io è mi ancora chiedo... toscano, pensa ai santi, come ma diceva esatto, Duccio, sono venuti giù tutti, eh? Andrea? No, in realtà volevo fare un'altra domanda all'avvocato Gagliardi per capire, allora voi da domani, su che tipo di strada vi metterete al lavoro per appunto cercare anche di così magari invogliare gli ascoltatori che sono state vittime di questa circostanza a contattarvi voi come altre associazioni dei consumatori, perché credo che in gruppo poi no seguirete tutta questa vicenda da qui alle prossime settimane, i primi step che percorrerete. Allora noi adesso ieri abbiamo fatto una richiesta a Sardegna di contattarci per aprire un tavolo. Ovviamente la richiesta è estesa anche alle altre associazioni che dovranno partecipare, che stanno raccogliendo casi. Noi raccogliamo segnalazioni tramite una mail che è sosturista@movimentoconsumatori.it, sì, in modo tale che costituiamo la classe, diciamo il gruppo di quelli che potremmo poi rappresentare o comunque a cui possiamo riferire delle novità che ci possono essere, e cercheremo appunto di portare avanti in modo collettivo le nostre istanze, per il momento senza attivare un contenzioso seriale o una class action, giusto per il motivo di cercare di evitare conseguenze più gravi dal punto di vista processuale di spese per la controparte. Certo. Anche perché stavo pensando che non so se l'iniziativa ci potrà essere anche un'iniziativa spontanea da parte della stessa Go in Sardegna, ma se questi non avevano i soldi per pagare l'armatore che aveva fornito i traghetti, perché un po' il nocciolo della questione è stata questa. Avvocato Gagliardi, se non ho letto male dei giornali in questi giorni, immagino che non abbiano neanche alcunché da dare appunto come risarcimento ai passeggeri, alla propria clientela. Ma, sì. Sì, insomma, se stanno comunque vendendo biglietti per il prossimo anno. Ah, ecco. Hanno pubblicamente dichiarato che sono a disposizione per rimborsare, non hanno ancora risposto, certo, però hanno predisposto un modulo. Se ci sarà un fallimento è un problema, perché comunque i creditori chirografari, cioè i passeggeri, non hanno privilegi rispetto ai lavoratori, certo, o altri, c'è altri creditori. Ma tu compreresti, Nicoletta, oggi? Allora, vabbè, noi lo stiamo raccontando, conosciamo la vicenda, ma magari qualcuno dai giornali non l'ha letta, si mette lì su internet e si prenota addirittura da oggi la vacanza per il prossimo anno e si compra il biglietto con Sardegna, ma con un minimo di informazione tu lo faresti oggi? Ti avventureresti? No, anche io a costo no. di risparmiare tu? 200 euro? Tu? No, vabbè, noi oggi siamo un po' condizionate, diciamo, da questo fatto. Vabbè, ti sentiamo prima dei saluti. Allora, dovremmo sentire Paola, certo, che ci chiama da Milano, perché diamo sempre la precedenza alle signore, ma Andrea ha un gruppo di cui parlarci, per cui facciamo un'eccezione. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Niente, praticamente noi eravamo ben sei famiglie, praticamente tre soggiornavamo in bungalow nei campeggio, sì, e tre a seguito con il camper. Praticamente le tre famiglie che soggiornavamo nel bungalow abbiamo anticipato la partenza di un giorno e siamo riusciti a tornare spendendo tanti soldini. Praticamente siamo riusciti a tornare con un'altra compagnia, mentre sì, invece praticamente i proprietari dei camper, chi ha potuto fare il biglietto come passaggio ponte, sono tornati regolarmente insieme a noi, però praticamente i conducenti dei camper, certo, per tornare la data che dovevano tornare, il biglietto del camper veniva oltre le 1.000 euro. Quindi hanno dovuto praticamente spendere altri soldi per il soggiorno lì nel campeggio. Alla fine magari i soldi erano quelli. Sì, infatti. Però, insomma. Allora, soldi su soldi, lì. Disagi su disagi. Possiamo sentire anche Paola, Paola da Milano, poi abbiamo proprio un'ultima battuta finale. Sì, con Paola, l'avvocato. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo raccontare la mia esperienza che risale all'anno scorso, non a quest'anno. Ah, quindi c'erano delle avvisaglie? Assolutamente. Vede, sì. Non se ne è parlato sui giornali, non si è saputo niente, ma io avevo prenotato un'andata e ritorno, una macchina, quattro persone, di cui tre ragazzi anche piccoli, e all'andata tutto bene. Al ritorno siamo stati avvisati due ore prima della partenza che il traghetto non c'era, era rotto, e avremmo dovuto prendere un altro traghetto. Peccato che io avessi prenotato e pagato una cabina per tutti e quattro, perché il viaggio era di notte. Abbiamo dovuto viaggiare sdraiati per terra con dei bambini. Il viaggio è stato anche disastroso, lunghissimo, perché si sono accumulati ritardi per far salire tutti, quindi ci abbiamo messo 15-16 ore. Io mi ero informata sia con un'associazione di consumatori sia con la stessa compagnia per avere perlomeno il rimborso della cabina, che non è stata utilizzata. Ha avuto nulla? la raccomandata è tornata indietro perché la società è sparita. Ecco, Paola, tra l'altro, perché proprio come domanda finale all'avvocato Gagliardi, allora, in attesa che tutte le iniziative dei consumatori intraprendano delle iniziative collettive, ma magari ognuno individualmente una messa in mora della compagnia la può fare, una lettera comunque è bene mandarla, un reclamo formale, avvocato, comunque mettere qualcosa di nero su bianco per potersi tutelare in futuro. E poi tenete tutti i biglietti, tutte le spese che avete fatto, così magari potete poi dimostrare tutte le spese che avete dovuto sostenere in questo frangente. Avvocato, 10 secondi. Sì, senz'altro, una lettera raccomandata, una PEC che lasciano traccia, oppure altrimenti possono rivolgersi al Movimento Consumatori e possono scrivere noi il reclamo documentando i danni. Benissimo, e non solo, perché anche le altre associazioni dei consumatori si stanno attivando. Conf Consumatori a Catania segue molto attivamente questa iniziativa, Adiconsum e non solo. Grazie avvocato Gagliardi, buona giornata. Buona giornata. Voi, buona giornata. Una buona giornata anche a voi che ci avete seguito, a Pietro Lacorte in regia la parte tecnica, a Laura Vanossi e a Marco Lombardo. Noi come sempre torniamo domani, vi aspettiamo a partire dalle 11:00. Se avete bisogno di noi, scriveteci.